torto e non ho più le parole che muovano il sole. Un passo avanti e il cielo è blu e tutto il resto non pesa più come queste tue parole che si muovono sole. Come sempre sei nell'aria, sei tu aria e cuore e mi uccidi. Come sempre sei nell'aria, sei tu aria, dai e mi uccidi. Tu come aria in vena sei. Passo indietro ed ora tu.